Taccuino di viaggio. Antiche città scomparse e capitali moderne, deserti di sabbia, uliveti e barriere coralline. Terra di racconti biblici e personaggi leggendari, la Giordania è fra i luoghi più accoglienti e ospitali al mondo, dove non è difficile per i turisti sorseggiare un tè, magari ospiti degli abitanti del posto. Cose da vedere. Con 5.000 anni di storia, Amman è la capitale. Costruita sui colli, custodisce le rovine della dominazione romana, come il grande teatro del II secolo d.C. Qui l'antichità si mescola con l'architettura moderna, le boutique, il traffico, la vita notturna. Fra le altre città giordane da visitare c'è Gerash, con il tempio di Zeus e la chiesa di San Teodoro, e poi Madaba con i suoi mosaici bizantini. E soprattutto c'è Petra, la città rosa, scavata nella roccia oltre 2000 anni fa. Dimenticata e riscoperta solo agli inizi dell'Ottocento, la capitale dei Nabatei, popolazione araba che dominò la regione, Petra è patrimonio dell'UNESCO e una delle 7 meraviglie al mondo. Steven Spielberg l'ha scelta per il film Indiana Jones e l'ultima crociata. Il sentiero di Dio. Solo saltando con un balzo dalla testa del leone, egli dimostrerà il suo valore. 25 km quadrati da scoprire a piedi, roccia dopo roccia. Uno stretto canyon porta nel cuore della città perduta. In pietra arenaria, la notte Petra è illuminata da 1800 candele. Cose da fare. La Giordania è una delle mete migliori per le immersioni subacquee, adatta per ogni stagione. A sud, il Golfo di Aqaba è ricco di pesci tropicali e coralli. Risalendo verso nord, poi, si incontra il Mar Morto, 400 metri al di sotto del livello del mare, la depressione più bassa del pianeta. Le sue acque sono ricche di minerali che, abbinati ai fanghi della costa, sono noti per le proprietà terapeutiche. Il deserto del Wadi Rum è il tempio delle gesta di Lores d'Arabia, il colonnello britannico a capo della rivolta araba di inizio Novecento. Le dune del deserto giordano hanno ospitato le riprese del film che David Lean ha dedicato all'eroe che conquistò Aqaba. Oggi il Wadi Rum è una meta del trekking, anche a dorso di cammello, e per l'arrampicata sportiva. Le sue pareti rocciose sono decorate da 30.000 incisioni rupestri di epoca preistorica. Il consiglio. Con i loro mosaici e affreschi, i castelli del deserto sono il simbolo dell'architettura islamica antica. Opera della dinastia Umayyade che regnò nel VII secolo, fungevano da stazioni per le carovane, che viaggiavano per mesi trasportando incenso e ori. In Giordania ci sono anche i castelli dei crociati che li costruirono 1000 anni fa lungo la strada dei re, che da Amman conduce a Petra. Oltre il 90% della popolazione della Giordania è di religione musulmana, perciò non è appropriato indossare vestiti troppo corti o scollati. Durante il Ramadan, il digiuno di 30 giorni che cade nel nono mese di ogni anno poi, è meglio evitare cibo, alcolici e fumo in pubblico. Cose da mangiare. Sapori forti e pietanze profumate. Cosa assaggiare lo suggerisce Michele Martinelli, per 2 anni chef alla Corte dei Reali di Giordania, Rania e Abdullah II. In Italia ha aperto la sua locanda sulle colline livornesi. La Giordania ha una cucina che deriva dalla cucina libanese, no? Però hanno 2 piatti che sono proprio tipici giordani. Uno è il maglube, che è praticamente come un timballo di riso condito con dei cavolfiori. Viene fatto col pollo, con l'agnello. E questo è praticamente uno dei piatti nazionali, no? La spezia che prevale è il curcuma e poi ovviamente il cumino, che loro chiamano kamun. Poi hanno un altro piatto, che quello è un pochino più ostico da mangiare, che è il mensaf. Questo era il tipico mangiare beduino. Sono praticamente uno spezzatino molto grossolano, sempre di agnello, e viene cotto dentro uno yogurt, viene essiccato sotto la sabbia. Poi viene rigrattato, riidratato, e con questo viene fatta appunto questa salsa in cui cuoce l'agnello. Questo ha un sapore un po' particolare, ecco, veramente per chi vuole andare a cercare la tipicità. Il Monte Nebo si trova nella Giordania occidentale. La Bibbia racconta che da lì Mosè ebbe la visione della terra promessa. Dalla sommità, a 800 metri di altezza, nelle giornate più nitide si scorge Gerusalemme. Il nostro viaggio in Giordania termina qui. La prossima settimana si riparte alla scoperta di Cipro. Un saluto da Maria Chiara Grandis.